scritte sopra i muri. Notte alla conquista di ogni bar, fuori dai concerti perdevamo anche l'ultimo tram. Sentimenti, amori scritti nel DNA, sogni costruiti tra le mura di questa città. Anni divorati dalle nostre notti punk, e anche il tempo adesso ha abbandonato ogni sua velleità. Lividi e sudore, il ribelle vive qua, sotto ad un palco perso, col suo sogno perverso. Quello che sei, quello che vuoi, porti la tua città in fondo all'anima. Quello che hai, quello che fai, fratelli andati via, ricordi e nostalgia. Chiuso in un cassetto di leggende di realtà, la tua vecchia folla ormai stampata ti ricorderà. Ma quale tricolore l'abbiamo fatta una città? Poco e notti di gloria sono la nostra storia. Quello che sei, quello che vuoi, porti la tua città in fondo all'anima. Quello che hai, quello che fai, ribelli e polizia, ricordi e nostalgia. Yeah.